vicino, però devi tenere almeno una distanza di 5 metri, 4 metri e mezzo, 5 metri l'una dall'altra, Massimiliano. Io non è che ho detto sullo stesso palo, io ho detto si può mettere un'altra sull'altro palo, ho detto infatti. Sì, e beh, poi giustamente devi rispettare un po' la distanza, ma ti dico che io per esempio ne ho due antenne, sicuramente le avrei anche viste sul tetto mio, e saranno forse 3 metri una dall'altra, però non mi crea questo grande problema. No, non è il problema che create, il problema è che si creano tra loro, tu non te ne accorgi naturalmente. E cosa succede? Serve una distanza per far sì che una non disturbi l'altra, capito Massimiliano? È come che tu stai mettendo un'antenna vicino a un muro, ecco, una cosa del genere. Vabbè, attenzione però, Luca, una è solo per ricevere, quindi non è che crea tanto disturbo. No, non c'entra niente, una riceve o non è che vai a trasmettere con tutte e due le antenne, capito Massimiliano? Quello è. Ah, ecco, quindi hanno un po' di riflesso da una con l'altra, così è. Sì, si vedono una con l'altra, ecco perché la distanza minima sono almeno 5 metri l'una dall'altra. Ho capito. E vabbè, io l'ho messa così giusto perché non volevo stare con questo commutatore, ho capito. Quindi ho fatto un'antenna sulla radio e l'altra antenna sull'altra radio. Ehi, avanti Gianni. Ma io prima aspetto che questa qua non serva più per fare l'elettro per un'altra, che sono impotente l'antenna. Tu sei a casa tua, Massimiliano, puoi fare, a me mi fanno osservazione, si pongono troppe antenne, si rompono le scatole, l'importante è quello. Tu a casa tua puoi fare i subiti piatti, non che io non sia a casa mia, ma è sempre un condominio, capito? Sì, beh certo, sul condominio la cosa è un po' diversa, io qua metto quello che voglio, dai, salgo quando voglio, allora che voglio, non disturbo nessuno. È quella la bellezza della casa dipendente. Ci sono i pro e i contro, perché se per dire si rompe una cosa te la devi pagare da solo, invece il condominio la dividi fra tutti, però ci sono anche le comodità. Vabbè, pazienza, cosa devi fare? Un po' di attenzione ci vuole. Io quando ti ricordo quando abbiamo piantato la mano là qua, è salito un uomo, ragazzi, mi ha facciato un metro quadro di deuri. E c'erano anche le tavole, vabbè, quando sono così, vabbè, cosa devi fare? Va bene, anche io qualche duna l'ho rotta, ogni tanto, già ne ho di scorta, ogni tanto ne cambio una. Perché poi con le intemperie si rovina, no? C'è poco da fare, si ramolliscono e come ci metti te si spacca. Ehi, positivo. Avanti Giulio. Ok, sì, tornando indietro un attimino con il discorso antenne, c'è da considerare quello che penso io, ma è sicuramente così, che essendo quelle due antenne tipo di polo, allora diciamo che si offendono, per così dire, a vicenda, essendo troppo vicini, mentre un po' diverso sarebbe come le antenne che hai tu, che ci sono i radiali ed è tutta un'altra cosa, la massa, insomma, funzionano tramite la massa, mentre invece questa della massa non usufruiscono, essendo antenne tipo di polo, e allora ecco che si annullano, tant'è vero, dicono di non mettere metallo al di sopra del PL, al di sopra del PL non ci deve essere nessun tipo di metallo, se no potrebbe pregiudicare il valore e la prestazione dell'antenna, tutto lì. Così è Luca. Sì, non potrebbe, pregiudica. Ciao Giulio, che è questo bussolo, non lo sento. ciao Tino. No, non lo so, lo conosco Tino, adesso le diciamo di presentarsi perché cosa vuoi? Deve essere un abusivo. Avanti l'amico, chi sei? Presentati, non fare l'abusivo, vai l'amico. Sì, secondo me anche io lo faccio vicino, non sopra la cabina dei cavatoi, sopra proprio la bomba meccanica, si crede in braccio. Davvero? Andate. Vai, ti faccio lo prendo, vai, fine. c'è a Rocca, sono entrato così, quindi saluterei a tutti, chi si è, chi c'è, fai girare Giulio. Ok, Tino, niente come si deve, non ne vogliamo lui bondezza, niente come si deve, ma Massimiliano, dopo tanto, mi ha fatto piacere riascoltarlo, e Gianni lo più rum, vai perché vuoi Tino. Bene, bene, soluzione, dai, fa piacere riascoltarsi, non riprendi Massimiliano, ciao. Ciao Tino, ma io non riesco che arriva tutti, allora ci sentiamo, ciao a tutti. Ah, allora lo sapete che quando entro io dovete chiudere i baracchini, sì? Sì, sì, lo sapete, per quello, là. Ciao a tutti, buonasera, ben entrato, là. Vai, doppio ru. Scappa, là. Ciao, lasci vedere, concorrenti. Ciao Tino, mi sentite anche a te un pugno a capo, va? Ciao Gianni, no, stavo raccontando, poc'anzi sono uscito, sono andato a Bricoman per fare delle spese, ecco, così, e avevo una mosca in corrispondenza del sotto lo specchietto, diciamo, nel collo della macchina. Prendo la mascherina, vado a schiacciarla e nello stesso tempo però colpisco il profumo che avevo nello specchietto attaccato, che si è smatto al vetro e mi spacca il vetro. Non ci credo, e bello è un'altra cosa, ce l'ho preso anche un po' a ridere perché sembra fatta apposta, Gianni, c'è una stella, ce ne presente la stella della la Rosa dei Vinti, è fatta così. Ah, ma io metto il parapetto che hanno. E allora? E non si può aggiustare, io a Pascoli li aggiustano quindi. Adesso vediamo, se andiamo appena aggiustarlo, se no lo lascio così, non appena niente, ci sta anche bene. Vabbè, riprendi Luca, fai il ginocchio. No, che cammina, poi diventa più grande, continuo, non lo trascurare, se ti appasco gli fanno delle iniezioni di cose, la giusta. Mi devo avvicinare, diciamo che ho provato a toccarlo con l'unghia e non è neanche scheggiato, sembra una cosa interna più che altro, capito? Quindi non credo che riescano a fare, sarà il loro lavoro, magari riusciranno anche a farlo. Io ho provato a vedere con l'unghia e non sembra neanche intaccato. Loro già lo sanno come fare. Cose che capitano, insomma, cazzo, ma sfiga, tutto quello che costa un bel. Ma io avrei cambiato la macchina. No, come adesso che me la voglio bruciare. No, stiamo facendo ristrutturazioni in capannone adesso, no? Perché siamo in aspettativa di mettere il piede dentro un cantiere, quindi ne approfittiamo, facciamo un pulimento, adesso facciamo la perna, che l'abbiamo trasabbiata. E sto pensando, pensate di fare anche la macchina. E allora, visto che fa la gialla lì. Giallo Caterpillar, giustamente. Sì, via. Ma che poi si confonde che andano a travagliare. E vabbè, guarda, come comunità c'è una dell'altra, va bene, quindi. Sì, fa da colore di cani fuggenti, una volta si diceva così, quando è giallo, è colore di cani fuggenti. Lo so, ma allora, visto che deve verniciare, allora ti conviene tu direttamente e lo sostituisci, anche perché secondo un poliziotto che trovi alla stradale, se Pignolo ti fa osservazione per il vetro rotto o Tino, so che il vetro deve essere intatto, perché secondo la motorizzazione è pericoloso quando è filato. Anch'io ce l'ho avuto nella macchina, non l'ultimo, ma l'altro ancora che avevo, e devo dirti che da una filatura piccolissima che c'era, poi tutte le volte che passavo nelle strade dove c'era qualche fosso e si allargava sempre di più, alla fine poi ho versato addirittura la macchina, sicché non ho fatto nemmeno la spesa di cambiarlo, perché succede così, Etino. Sì, lo so, insomma non è neanche tanto piccolo, cosa ti posso dire, immaginati un cerchio di 7-8 centimetri, ecco, quindi se va a peggiorare è un casotto. Per quanto riguarda la motorizzazione non credo che passi in la revisione, perché se è il vetro filato, so che te lo fanno cambiare, insomma, adesso vediamo. Sì, infatti è così, se devi revisionare non passalo nella maniera più assoluta, però è chi lo sa, ogni tentativo è buono quando va bene. Avanti Massimiliano. No, non ho chiuso già. Era la battuta che ho fatto a Tino, ho detto, adesso è entrato Tino, me ne vado io. Ah, io pensavo che ci chiudevo la vera. Ah, no, era la battuta. Vabbè, basta passare un attimino lì e vedere un po'. Se si può rimediare è meglio che lo rimedi subito, se no pazienza, più avanti se lo cambierà, prima della revisione va, se lo compra, se lo cambia. Vedi, va. Avanti, Flipper. Io ti domani siamo in due macchi. No, penso che si possa riparare. Solo che la mia domanda è questa, cioè finché c'è una. Allora, solitamente le scheggiature partono dalla parte esterna del vetro, no? Questa qua è interna, ma non c'è neanche la scheggiatura, quindi non potrei capire o spiegarmi come potrebbe fare l'iniezione, ecco. Se no che fanno un buco loro continuano a mettergli il revisionamento, boh, non lo so, vabbè, ci penseremo, tanto con la revisione ci vogliono ancora 2 anni, quindi, ma andrò prima possibile. Poi ce li hanno loro le attrezzature, Tino, per ripararlo, non ti preoccupare, io lo fai vedere e ti dicono se si può fare, buono, se no, pazienza, più avanti te lo prenderai. Sì, sì, vabbè, non sono problemi. L'ho anche già provato a pochi soldi, ma l'ho prestato per togliere il mio e insomma è piazzato per le varie. Siamo nell'ambito delle carrozzerie, quindi non c'è problema per quello che non c'è. Positivo il capo a brioche, vai Giulio. Okay. Una volta sono andato io lì via Pascoli, perché quando ho azionato il tergicristallo c'era un sassolino, ma talmente piccolo, forse la sabbietta, non lo so, e mi aveva fatto un graffio nel parabrezza, mi avevo fatto, e mi avevano detto, no, vai via Pascoli che te lo lucidano e sparisce il graffio. Ci sono andato, ho chiesto, no, dice, se lo lucidiamo poi addirittura diventa opaco, sì che non si vede più. E allora si è preso per il capo. Così era e così l'ho lasciato. Ho un piccolissimo graffio da niente, però mi dà fastidio solo vedendo, ma è una cosa proprio quasi invisibile, che non lo vedi, soprattutto quando piove, perché come aziono il tergicristallo rimane proprio nell'incavo che si è formato, rimane una specie non di goccia, no, non lo so come definirlo, però si nota che c'è l'acqua insomma dentro praticamente. Ma non l'ho lasciato così, pazienza, cosa potevo fare? Avanti Massimiliano. Vabbè, io nell'altra macchina che ho avuto un ubriaco ci è caduto sopra e me l'ha rotto nell'angolino, non si vedeva niente, poi piano piano, come dici tu, è iniziato e ha preso tutto il vetro e niente, poi alla fine me l'ho sostituito, no? Ok signori, io vi lascio, grazie della chiacchierata, ci sentiamo alle prossime, dai che me ne scendo un po' giù che qua c'ho i piedi congelati. Alle prossime, ciao a tutti, ciao Giulio, Luca, Gianni, Tino e tutti i vari ascoltoni. Ciao ciao, vi saluto. Ciao ciao Massimilia, buona serata, dai. Avanti Tino. Va bene Massimilia, dai, alle prossime, stare bene, un abbraccio, ciao. Ci sentiamo, Luca, avanti. Ciao Massimilia, alle prossime, vabbè, io volevo iniziare un discorso di scavatori, però se stai chiudendo, pazienza, avanti giù. Se non sai neanche di cosa stai mangiando. Ok, dai, saluto a Massimiliano, ciao Massimiliano. Grazie per essere entrato a fare 2 chiacchiere con noi e speriamo di risentirci presto. Ciao Massimiliano, ciao, buonanotte. Avanti Tino. Hai capito Giulio, vuole prendere un discorso dove non sa neanche dove mettere il piede nella scarpa. Sì, vabbè. Perché come fa? Con le scarpe come fa? Tutti e 2 piedi in una mette lui. Comarci, affrontando quel discorso lì sì. Caspita, allora mio, la scarpa è troppo grande o i piedi sono troppo piccoli. Caspitina, a posto siamo. Luca, com'è questo problema? Vabbè, ha chiuso Massimiliano. Volevo entrare nel discorso, secondo me le macchine migliori erano le Komatsu, però vabbè, ha chiuso Massimiliano perché comunque Tino avrebbe detto la sua. Avevano fatto un mini discorso, dai, ma cosa perché ne sappiano loro di queste robe? Avanti già! E allora? che cominciò a fare scuola guida con le ruspe, eccoli di Caterpillar. Allora, io volevo sentire parlare di tutte e due, perché sai, una campana solo va bene, però vabbè, pazienza, sarà per domani. È così, dai. Siete, ci vorrei proprio di 10 macchine al gruppo di voi. No, è stata pazienza, sono Cappaletta, diceva quello. Eppure, almeno per prova così, sarebbe divertente provare una di quelle macchine, ragazzi, soprattutto quando tiri sul braccio su una casa che la demolisce, eccetera. E deve essere divertente anche, magari come lavoro è anche pesante, alla fine della giornata è lavoro sicuramente pesante, però per uno che non ha mai fatto quel lavoro, così fare una prova dovrebbe essere divertente, vero Tino? Una dipende, io vabbè, all'inizio sì lo era divertente, poi diventa un'abitudine e poi come tre cose ti annoia. Ma poi diventa un sacrificio, perché il lavoro è sacrificio, sì, che lo sappiamo benissimo. Bene, bene, vai Luca. Certo. Ma è anche una passione comunque. Allora, passione sul lavoro non penso che ce ne esista, comunque, perlomeno nel lavoro fisico manuale, poi non lo so, io lo faccio perché c'è quello da fare, non è che devo dire che mi piaccia granché, non so più neanche cosa dire, sì, che un lavoro, il tipo di lavoro che mi potrebbe piacere, a me piace fare sciopine, ecco, quello mi piace. E bene, ti do la carta. Sì, ma anche il film mi deve dare però. Quello domani, capita, tutto oggi vuoi. Sì, no, toglimi la curiosità, ma per guidare quelle macchine ci vuole un qualche patente particolare oppure basta anche la patente della macchina? Ma guarda, prima basta la sola patente della macchina, io per 25 anni l'ho guidata sempre a patentino, adesso pretendono un patentino, ma più che altro per la sicurezza, non è che devi fare una sorta di esame, dai. Vedono un po' come porti la macchina, poi ti spiegano due o tre cose sulla sicurezza e quello patentino, praticamente mi sembra che siano 180-220 euro se non ricordo, dovresti pagare ogni 5 anni. Ho capito, insomma un altro sistema per spiegare i soldi alla gente, a chi lavora, ho capito. E poi un'altra informazione, sempre adeguando, ma c'è un limite di età per portare quelle macchine oppure uno la può portare anche quando ha 80 anni ad esempio? Questo non te lo so dire, noi abbiamo avuto un operatore che si è andato in pensione portando quella macchina, quindi non credo che finché uno se la sente, perché giustamente devi scendere dall'escavatore, quindi poi una volta che sei seduto lavori con le mani, giustamente devi avere faranno le visite come tanti anni, se sei idoneo nei riflessi, questa roba qua, capito? Ma se uno se la sente, credo che non ci sia limite di età. Ho capito, sì, no, era una curiosità mia così, perché non ero assolutamente informato con questo fatto qua. Bene, bene, avanti Gianni. Sì, vabbè, dopo uno che lavora tanti anni si va in pensione, a meno che sia conto suo, continua a guidare. Ma quando se ne va in pensione non penso che deve cagare, poi mi dia la ruspa o l'escavatore. Sì, diciamo la verità che io, alla mia principale aveva un collaboratore, era grande e quindi faceva il suo lavoro, ma perché erano soci, capito? Quindi era anche in età pensionistica. Vabbè. Comunque le ho viste in miniatura lavorare, sono bellissime, c'era sia il cano che l'escavatore prendeva davvero la sabbia e la metteva sul cane tutto quanto, era come quella vera, però radiocomandata, di come le macchinette da corsa, grandi come mesi, molto grandi, non erano piccoli, erano quelli grandi, anche l'escavatore era tutto fatto perfettamente, sembrava vero. sì, l'ho visto anche io, bene, telecomandato, bello, bello. Che faccio io? Magari uno che lo fa per lavoro mica va a comprarselo, ma c'è magari quello che ha decidito di prendere la busta e vedere come funziona. E non sarà mai come quella vera, ma si diverte, dai. Ma guarda, io credo che forse ti divertivo con quei giocattoli, mentre al contrario di quando si è seduto, vabbè, se devi fare demolizione è già un'altra cosa, sarà una cosa più impegnativa, più bellina, più. Se devi stare lì in casa, solo a caricare camion, ne puoi avere più di 30-40 il camion, però sei sempre il solito movimento, le solite cose, non è che bello fare un lavoro impegnativo tipo uno scavo una settimana, o con la bella trapezzolare, per uno scavo fare le cose dell'acqua, allora è più impegnativo, ecco. Ma il rumore all'interno se ne sente un occhio oppure è abbastanza coinventato? Ma io ti parlo di una macchina che ho di 20 anni, quindi con vetrazioni sì, cioè erano 20 anni fa, erano un po' più così, sgangherati, nel senso che non c'è la coinventazione di oggi. Oggi ho visto degli escavatori nuovi che sono ben coinventati, il rumore c'è, ma è minimo, è come che se dentro una macchina senti un motore in moto, la forza che fa, però non è insistente, ecco, non c'è bisogno di cuffie per spiegato così in breve, ecco. Ho capito. Vabbè, è sempre meglio che usare il trapano di quelli a mano, il molto piccolo. Mamma mia, chi si devo avere le braccia che dipendono quando finisco la giornata. Dimmi Luca, ne sa qualche cosa. Sì, io l'ho visto a Tino lavorare. Secondo me è uno dei migliori, io l'ho visto lavorare veramente, cazzo, allucinante, ti fa uno scavo, tu gli dici a quella profondità per tot lunghezza, oh, te lo fa allucinante, ha una mano incredibile. Hai visto? Che cosa già, scusami, ho usato che cosa? È il moto picco, quello che usa, che vibra, fa questo, che ti fa vibrare le braccia quando lo usi. Sì, io ho usato quella varia che pesava 35 kg, sono molto picco, e poi vabbè i classici che gango e il più brutto era quella varia che ho fatto un po' di scappi con quello, anche fosse la Citic. Cappa, ma te ne fa scendere le braccia quello lì usandolo tutto il giorno, Io lo vedevo quando facevo lavori vicino a casa, anche ero bambino, me lo ricordo ancora, che mi vibravano tutte le braccia a quello che l'ho manovrato. E tutti i muscoli, quello non c'ha bisogno di fare ginnastica, cazzo, di far andare tutti i muscoli, li risveglia. Ma io ho conosciuto un signore della corte che era conosciutissimo per la forza che aveva e poi era un pezzo d'uomo di una certa peso e altezza, e lo mettevano a trivellare con la trivella, praticamente con la trivella scendi, che ne so, nella roccia un metro e mezzo e poi metti la gelatina, la fai brillare. Lui quando appoggiava solo la faccia, io me lo ricordo perché l'ho conosciuto, mi faceva troppo ridere, cioè già alle 10 del mattino si prendeva un pezzo di porcetto e il bocciolo di vino e faceva colazione. E niente, quello lì era tremendo, non faceva buchi, lui non voleva provare a portargli le cose, non per carità. Anche quello poverino se n'è andato, comunque la sua strada l'ha fatta anche lui. Giulio, riprendi. Ok, beh certo, sono mezzi quelli che sono pesanti, insomma, e non per niente ci vuole gente robusta per mantenere quel moto picco eccetera, io lo credo. No, e poi ti volevo chiedere anche un'altra cosa, forse lo sai, ma anche per quelle gru piattaforme, anche per quello, con quello che hai tu, con la patente che hai tu, con quel permesso puoi guidare anche quello, puoi guidare, vero? O Tino? Non riesco a capire cosa intendi. Allora io posso guidare la Terna, che è praticamente una sorta di trattore che ha la benna davanti e il retroscavatore dietro. tutte le macchine operatrici col patentino, poi prende l'escavatore, la farà gommata, la cingolata anche. Però so che stai dicendo, non riesco a sapere che macchina stai dicendo. No, forse mi sono spiegato male. Quei camion che hanno la piattaforma che serve, non so, per fare i lavori in facciata, eccetera, senza bisogno di installare il ponteggio tradizionale, quel tipo di guru, cosa, come si chiamano? Piattaforma, cerzello, non so come si chiamano. No, quella no. Vai Luca, vai, la scala aerea. No, quella no, vo giù. Ah, quella non, con quella patente non si può portare, perché so che ci vuole la patente per la macchina, poi ci vuole anche un permesso per poter guidare questa scala così. Sì, esatto, ci vuole un patentino per la scala aerea. Pensa che a me mi facevano piazzare i ponteggi, quelli a torre, non so se li hai mai visti, e non ne potevo piazzare, capito? C'era solo nell'impresa dove ero io un ragazzo di Porto Torres che era l'unico che aveva questo patentino per poter piazzare quei ponteggi a torre, a tralicci. E li facevano piazzare anche a me perché questo ragazzo mi aveva insegnato, e però io non ne potevo piazzare, solo che in cantiere, se uno era in un cantiere, uno io ero nell'altro, cioè lo piazzavo io, capito? Ok, sì, ho capito. Sì, li ho conosciuti quei ponti così a torre, sì. Sono comodi con quel motore, certo, però c'è da avere anche paura a salire su. Uno se poco sopra il vertigine ci può salire, ma non solo su quello, ma qualsiasi ponteggio, purtroppo è così. E vabbè, sono lavori molto pesanti questi, anche se tu mi dai, ma quando uno è sul ponte, che il ponte è fatto bene, che è tutto ben protetto come si deve, se ci sono tutte le protezioni, è sempre in alto, sì, e dunque c'è sempre quella paura nella mente dell'uomo che ci lavora, c'è sempre un minimo di paura, c'è sempre, anche se il ponte è ben allestito e tutto quanto assicurato, eccetera eccetera, perché non si può mai dire. Bene, avanti Tino. Sì, io ultimamente Walter ha preso una scala aerea, mi sembra che salga intorno ai 22 metri, e ti dico la verità che l'ho provata per fare un lavoro lì nel traliccio, sugli edifici che siano intrecciati, e sono salito sino all'ultima, sino alla massima altezza della scala. Non è bellissimo lavorarci a quella altezza, ma non per altro, perché giustamente deve oscillare, quindi se sei abituato all'oscillazione ci può lavorare, ma io parto dal presupposto che se stai facendo un lavoro in una facciata e balla così, insomma non è che sei tanto ti metto la batterita. Però vabbè, io un po' d'altezza sono abituato da ragazzina, perché facevo la carpenteria, quindi camminavamo anche nei travi con delle tavole da 10 da 12 centimetri l'una, quindi insomma al quinto piano, meno male, con l'altezza ero abituato, però lì diciamo che ultimamente non era più come 30 anni fa, 40 anni fa, ecco. Beh certo, no, io ho provato una volta, sono dovuto salire sul cestello, questi gru con la scala aerea come si chiama, perché mi avevano chiamato una volta per aprire una porta, e c'era una porta e che questo non lo voleva rovinare, la porta d'ingresso, anche perché se io l'aprivo magari bisognava fare delle riparazioni, e allora mi aveva chiamato un certo Peppino Santi, che è l'ex pesista di sollevamento pesi, olimpionico eccetera, no? E mi aveva chiamato se potevo aprire la finestra, la porta finestra nel terrazzino di casa sua, e mi ha detto sì che te l'apro, perché no? Ma io ero convinto che sarei salito normalmente nell'appartamento, e invece no, quando vado lì mi si presenta questo camion, che c'era questo uomo con questa autista, dice mi deve salire sul cestello così io lo porto su, e io con un po' di timidezza ci sono salito, però poi alla fine l'ho fatto e non è successo niente. E dunque per dire, no, c'è chi ha avuto anche la diciamo così, la curiosità di poterci salire su questo cestello, ma devo dire che non è così bello stare su. Vai Luca. Ebbene, penso che te la racconto una quando ero con questa impresa appunto di qua, dai. E abbiamo fatto un lavoro in via Napoli col 190, che abbiamo parcheggiato, penso, sulla parte destra, ok, della strada, e con lo sbraccio siamo andati dalla parte opposta, ok, in via Napoli, in piena strada, dalla parte opposta a lavorare su al sesto piano per buttare giù i calcinacci, sicché la macchina era da una parte e noi eravamo, capito, dalla parte opposta. Lì sì che insomma un po' di cose ti viene, perché comunque uno sbraccio del genere oscilla, pensa che era a Sassari era una delle macchine più lunghe come sbraccio, capito, fino a 42 metri, cosicché noi, immaginati pure da una parte della strada con lo sbraccio attraversare la strada per andare dall'altra parte, non è una cosa tanto simpatica, eh. Un attimo, dai, io vi saluto tutti cordialmente, da Stefano devo andare a portare giù il cane. Buona serata a tutti, doppio dunque rete esecutivo. Ok, ciao Gianni, salutone, allora domani dai, se coincide. Grazie per la chiacchierata. Avanti Tino per salutare. Beh, ciao Gianni, ciao, buona passeggiata, salutami a Paeso. Ciao, grazie, buona serata a tutti. Ciao Gianni, buon fine serata. Un bacio in bocca a Tyson da parte di Tino. Sì, senza dubbio. Comunque, giù, ricapitolando quella scala aerea, più sale giustamente, più vibra, quindi più si muove, barcolla. Però se l'abbiamo fatta, credo che ci sia la sicurezza per poter lavorarci, quindi bisogna solo trovare la persona adatta che non tema le altezze, che sia buono di stomaco, ecco. Sì, allora immaginati tu la scena, la macchina parcheggiata da un lato della strada e tu dovevi andare nel palazzo alla parte opposta della strada, con la gente, le macchine che passano sotto, uno sbraccio del genere, capito, anche se avevamo aperto i piedi, tutto quanto, quello che vuoi. Giustamente l'autista era quello che lavorava con noi, autista e in più manovratore, capito? Perché poi dentro il castello eravamo in tre, eravamo. Però, sai, no, le sicurezze ci sono, perché cosa succede? Se la gru avverte pericolo, si blocca, non è che c'è pericolo che ti capovolgi o si capovolge la macchina si blocca e ti dice, oh, torna in arredo perché c'è pericolo, ma i piedi erano tutti aperti e tutto era in sicurezza. Però comunque quando vai a attraversare per andare nella palazzina di fronte, sai, un po' di coso ti viene, anche se l'altezza non è temi. Io lo so. Ti ripeto, quando l'ho provato ultimamente da Walter, che ero tutto sbracciato, c'era un po' di vento, si muoveva un bel po', quindi in primo momento non ti fa niente, però poi alla fine, sinceramente non volevo provare a finire per scendere, perché sai, quando sei in tira con le gambe, cercando di stare fermo tu, dovevi anticipare l'oscillazione per poter fare lui con la testa alta, guardando il cielo per svogliare quello che c'è da svogliare, insomma, non avendo appoggio, non avendo niente, si è sempre lì barcollando. Comunque non è, insomma, l'abbiamo fatto, non è una cosa simpatica, però anche quello esiste. Giulio. Indubbiamente non è una cosa simpatica, no, soprattutto per uno che non ci è abituato, già si sta meglio per terra lavorando, vai. Io capisco che a un certo momento questi lavori bisogna fare ugualmente, però ci sono le persone che le fanno, certo che ci sono. Sì, sicuramente quella gru che avevi lì, la Via Napoli, era senz'altro una gru di discorso di benzina, perché io so che benzina è uno dei più attrezzati in quanto a macchine industriali per l'edilizia eccetera, o Luca sicuramente era una di quelle macchine, non è che ce l'hanno tutti una macchina così, con un braccio così lungo, vero? Allora, erano non so in due o in tre a Sassari, c'era appunto Mesina, Donati, noi e un altro, capito? All'epoca, adesso sicuramente sono un po' tutti così, però all'epoca la sua arrivava fino a 42 metri, capito? E sono tanti, non sono pochi, 42 metri. Capita che sono tanti, mamma mia. Io penso che non ci sarei salito lì, io avrei avuto paura, vabbè, io non sono abituato, non ho lavorato nell'edilizia, per cui, perché anche quello conta, se uno è abituato a lavorare nell'edilizia, incomincia a provare un po' di tutto, pontigli e balle varie, a un certo momento l'altezza, la paura per l'altezza la supera sicuramente, anche se non è che soffro di vertigini, assolutamente no, però io mi ricordo, avevo fatto una volta un lavoro al 12° piano del grattacielo di Sassari, lo chiamiamolo così, grattacielo, al 12° piano, e quando mi avvicinavo alla finestra che guardavo giù, tanto vedevo tutto questo Sassari, tutto vedevo dall'alto lì da quella finestra, tutta la parte su di via Roma eccetera, e devo dire che una sensazione così di paura ce l'avevo, e solo avvicinarmi alla finestra al 12° piano, guarda che è in alto, ma è in alto veramente, vai Tino. Sì, calcola 2,70 per 12 e sarà l'altezza che più o meno una quarantina di metri, forse anche di più, perché ci sono i magazzini sotto c'è l'edicola, che poi tra l'altro in quell'edicola io avevo fatto tutti i lavori allora a suo tempo, quando ero ancora dipendente, per cui che 12 piani, 3x2, 36 più i magazzini sotto, insomma una quarantina di metri, 45 metri almeno, non lo so, all'incirca così. Vai Luca. Sì. Scusate, ok. Mi tra un po' anch'io chiudo, che adesso mi chiamano per la cena, qui siamo molto metodici, via di dura, arriva la chiamata dalla parte bassa della casa, e dunque devo scendere per cenare fra un po'. Luca, ci sei? No, è che stavo cercando il mouse, mio figlio mi prende sempre il mouse, stava installando il driver, quindi questo è un altro mouse, vabbè. Mi ha dato anche a questo. Ok. Sì. Vabbè, dai, comunque, che dire, sono già le 8. Ecco, le 8 in questo momento. Hanno scattato le 8 in questo momento. Vabbè, comunque. E allora Tino, già si è un po' assente in questo periodo, la frequenza, però tutto sommato già va bene, evidentemente hai altre cose più importanti del baracchino da fare. Ma Giulio, guarda, non è che sinceramente parlando, molte volte io rientro tardi, anzi vedi adesso mi sono ricordato di una cosa, sono già le 8, sono anche in ritardo, porca miseria, ormai non ce la faccio più, avevo un appuntamento con l'Alleanza. Sì. No, niente, quando esco dal lavoro più che altro fai questo, fai quell'altro, rientri a casa, mangi, tra una cosa e un'altra, accendo la radio, non c'è più nessuno, ma si parla che l'accendo verso le 9, quindi voi avete già fatto questo magari un po' prima, quindi non combaciano gli orari, Sì, di solito qui in frequenza c'è il coprifuoco dalle 8 in poi, di solito c'è il coprifuoco, dunque tutti un po' chiudiamo, un po' per cena, un po' per affari personali di ognuno di noi, e dunque succede così. Infatti, come ti ho annunciato poc'anzi, anch'io sto aspettando la chiamata, perché mia moglie è poco puntuale, mamma mia, alle volte mi chiama, magari mi chiama anche due volte, anche tre volte, poi quando sento, ma non mi sentivi? E già ti ho sentito, non è che, oppure mi fa squillare il telefonino. mi fa svelare. Ma io tante volte, essendo impegnato in queste, allora diciamo che mi trattengo un attimino un po' di più, anche per aspettare tutti i passaggi e per avere modo di salutare poi a tutti, ecco, tutto lì, Otino. Sì, certo, però sei entrato Luca, ci sei. Sì, mi sono assentato, non so, forse mi avevate chiamato, boh, rilanciato. Ehi, che ci vuoi fare, Giulio, fatti mettere la carrucola col piatto. Ma quelle sarebbero le... ma c'è per quello un montacarico piccolino, quelli da diciamo così, da privato, dai. Ce l'ho da tantissimi anni, perché me l'aveva addirittura regalato un mio cugino, che lui lo utilizzava lì in Corso Vico, lui abita in Corso Vico, lì quasi a Santa Maria, diciamo, dai. E lo utilizzava per portarsi su una bombola, siccome non è che aveva molte possibilità di portarla su lui, allora se la comprava, se la metteva lì, la agganciava e se la portava su. Poi alla fine si è stancato e dice: ma chi me lo fa fare? Dice: me la faccio portare direttamente su dal bombolaio e non se ne parla più. Chi me lo fa fare? Dice: ah, fai come ti piace. E il motorino, ha detto: prendito, ma sai cosa me ne faccio? Prendito. Beh, ti dirò che mi è risultato molto utile, Otino, quando ho fatto dei lavori a casa, tu non hai idea di quante cose ho portato su, incominciando ad esempio da tutte le tegole e sabbia e cemento, un po' di tutto, insomma, naturalmente dentro uno quei contenitori, no? Quei secchi della tinta, eccetera. Vai ancora con Luca. Sì, comunque al discorso di prima, no, io problemi di vertigini, queste robe non ho, perlomeno non ne ho mai avuto. Se c'è da piazzare ponteggi a qualsiasi altezza, anche a due elementi, guarda che a due elementi, Giulio, non è tanto bello, con due elementi, a salire fino al sesto piano, così, non è tanto bello, così che, però non mi ha mai dato questi problemi, anche ripeto, quando lavoravo con Donati, che ho imparato a usare a piazzare dei ponteggi a torre, e guarda, i ponteggi a torre non è un gioco da ragazzi, Forse a me mi hanno insegnato questo ragazzo, il portatore, cioè a me è di piazza V io. Ma non è come un ponteggio qualsiasi, Quello, man mano che sali, devi appunto ancorare il traliccio, che pesa, comunque bisogna prenderlo in due, mettere due o tre tralicci sulla pedana, salire, montare, poi col trappano a impulsi, a frittare i bulloni in una determinata cosa, e poi ancorarsi sotto i terrazzi. E non è una cosa tanto bella, perché lì sì che oscilla finché non hai ancorato, capito? Sia che sia al primo piano, sia che sia al sesto piano, lui oscilla. Quando sali di cose, da un traliccio fino da un terrazzo all'altro, lui, non avendo ancoraggio, comunque oscilla, capito? E non è una sensazione, credimi, tanto bella. Avanti, Otino. Sì, vabbè, abitudine ci vuole, Luca. Aspettatevi, devo sentire un audio, scusate. Sì, riprendo io allora. Sì, Luca, in effetti mi rendo conto di cosa stai dicendo, certo, figurati, io suppongo che io quel lavoro non l'avrei mai potuto fare, perché credo che avrei avuto paura. Adesso questo lo sto dicendo perché io non ho mai lavorato nel campo dell'edilizia, eccetera. Può darsi anche che con l'abitudine dell'edilizia, del lavoro dell'edilizia, può darsi che l'avrei potuto fare anche, non lo so, ma oggi come oggi ti posso garantire che non sarei stato d'accordo per una cosa del genere, perché avrei avuto un po' di pipa, nonostante che non ho vertigini, la verità, non ho nessuna cosa. Però, sai com'è, figurati quando salgo su una scala, ragazzi, se non sono ben appoggiato alla scala, anche alla scala forbice, non è che mi fido tanto, non mi fido tanto nella maniera più assoluta. non lo so, purtroppo io sono così, ho sempre lavorato per terra, in basso, e non ho avuto abitudini del genere, Luca. Magari per quello non hai mai provato la sensazione, eppure una sensazione bella, è bella. E pensa che quei punteggi lì, che piazza Buio, fino ai 6 metri, 6-8 metri, potevi piazzarlo con un centrale solamente, con una torre solamente, capito? Il motore è sempre uno e la torre è sempre una, però hai appunto 6 metri, perché diciamo la lunghezza dei poggioli, eccetera. È così che poi devi fare questo lavoro così. E non è tanto bello, però ripeto, per chi non soffre di vertigini, perché la paura con le vertigini è un'altra cosa, Giulio. Vediamo un po' se è rientrato Tino. Tino? Sì, sono qua. Vabbè, dai. La paura, Luca, dipende da persona a persona, perché effettivamente io conosco gente che lavora nel cantiere, sembrava una scimmia, adesso da una caduta che avevo preso, per dire, da 5-6 metri, ormai le altezze le hanno dimenticate, ecco, come prima. Quello sì, ma guarda, se ti dico che una volta in via Cavieghis, dove c'è l'incrocio di Viale Dante, e la strada di fronte, che via è? Tu aiutami, Giulio. Viale Dante, la strada che c'è di fronte in che senso? Via Armando Diaz, ad esempio, parallela, oppure, non lo so, ce ne sono tante traverse, via Tempio, via Torino, via Alghero, tutte quelle vie ci sono. Allora, ti dico subito, salendo da via Napoli, ok, via Napoli alta, poi sali verso, per andare vicino al fuoco, il primo semaforo che ti trovi, ok, il primo semaforo che ti trovi che coincide con l'incrocio di Viale Dante di fronte, quel palazzo che c'è lì sulla destra, ok, che c'è un'assicurazione anche, non mi ricordo che cosa, ce l'avete presente quel palazzo lì? Sì, via Conte di Moriana, dai, ho capito, via Conte di Moriana. No, non è via Conte di Moriana. E allora, non lo so, la strada appunto dove c'è la caserma dei pompieri, è lì, quella che poi scende direttamente e finisce in via Napoli, finisce con lo all'incrocio alla fine di via Dante, e quella traversa è così. Via Conte di Moriana, no, vabbè. Comunque, salendo da via Napoli, ok, poi ti metti appunto su quella salita lì per andare verso il vigile fuoco, il primo semaforo che ti trovi, il palazzo sulla destra, erano i Sebbiani. Questo ragazzo qua c'era da smontare un ponteggio legato a fil di ferro, non so che gliel'aveva montato. Ok, legato a fil di ferro, questo ponteggio ha due elementi fino all'ultimo piano. Pensa tu. Allora, si è messo lui, è salito al terzo elemento, ok, a circa 6 metri così, si è seduto sul ponteggio perché cioè un ponteggio legato con dei tassellini a fil di ferro fino a quell'altezza lì era poi da smontare. Si è cagato addosso, si è seduto sul ponteggio, non è più voluto scendere. Finché non abbiamo piano piano convinto a scendere, questo ragazzo gli è venuto il panico forse, si è seduto sul ponte, oh tutto a posto, tu ne avevi di dirgli qualcosa, lui si è seduto sulla pedana e non voleva più scendere. Già lo credo, evidentemente si è reso conto che c'era il pericolo che si rovesciasse il ponte, però è da scelerarsi fare un lavoro del genere, ma quando mai uno deve legare il ponteggio col fil di ferro, no? Ci sono gli agganci adatti proprio appositamente e attaccati sui muri come si deve anche, tra l'altro, perché se trovi dei muri tutti quanti fradici, capita che sono pericolati anche quelli, diventa veramente un grosso problema, non è uno scherzo. Va bene, dai, signori belli, la chiamata è arrivata, quella che avevo preannunciato poc'anzi, per cui devo scendere per la cena, dai. Ciao Tino, grazie per la chiacchierata e per essere entrato a discutere un pochino con noi. Grazie a te Luca, noi magari ci sentiamo anche domani, non c'è problema, anche di mattina probabilmente, se non hai altre cose da fare, sicuramente almeno una mezz'oretta accenderò. Ok, ciao Luca e ciao Tino, salutone a tutti e due, riprendi pure Tino, io ascolto il pianolino dopodiché chiudo, vai. Bene, ciao Giulio, ciao. Così, Luca mi sa che domani per scattare, quindi stamattina non accende. Te lo passo. Ma che coccolica che non li fai in forno? Oh, ce n'è uno. Ce n'è uno, fa un'occasione del diavolo, boh. Cioè, pittà. Ti vuoi futtere un microfono. No, ciao Giulio, ciao, buona cena, buonanotte, buon tutto quanto. Riprendi Luca. Ehi, ciao Giù. Dai, domani. Va bene, va bene. Ah, uno solo, è meno male. Sì, vabbè, poi c'è Nicola che sta facendo i compiti e cioè, io perché voglio fare le cose un po' più avanti, nel senso di notte, quando loro sono già in letargo, io parlo, ma se parlo non c'è nessuno e quindi parlo col muro. Poi quando laica, ecco VIP, 6 posti, 11.000, ma proprio ma, bello, bello, bello, bello, però bello, non balla. Mi sembra che hanno mandato uno, bello, bello, bello, nel senso bello, messo bene, prezzo qualità, ecco, quello io intendo, e non pensare bello da 50.000. No, no, no, io sono nella soglia bassa, quindi non ti credere che... anzi io in più c'è solo intenzione e niente però sai una piattala dai e perché il brutto era quello che ti ho mandato io secondo me o c'era qualcosa sotto oppure era un affare perché due sono le cose no io che mi ricordo io mi sembra che dentro ormai 15.000 se non mi sbaglio 18, non mi ricordo ce ne sono molto molto migliori Luca e addirittura addirittura guarda se vuoi te ne mando qualche due anche adesso perché sono nella pagina che mi piace e ne sto guardando anche da 9.003 10.000 11.000 e che purtroppo il momento non sta aspettando ma io lo so dove sei tu perché dove sei tu bene o male sono io non è che ti ho mandato poi una fotografia del grattacielo, l'hai vista? Sì, sì. Però c'era la gru. Cazzo! Ma l'hai vista quanto è alta? Non so cosa stessero piazzando, buh. Minchia. Guarda l'altro qua per dire, questo è un 2007, non ci ha dato. Però tu devi guardare non solo i posti, devi guardare il minimo che sia almeno un 2008 di cilindrata e che non sia aspirato. Se possibilmente ha la cellula laica ancora meglio, capito? Cioè queste cose qua devi non a vista, Luca, perché a vista ce ne sono belli, però magari sono 1009, oppure sono a gas, oppure sono. Io le ho tutto quanto, capito? Adesso per dire questo qua è un 12.007, certo, ma se lo vedi è certo, un 560, è bellissimo, però per come secondo me non è non è fattibile la cosa, perché o è una curva, perché 12.007 è una cosa da un prezzo intorno ai 40.000 questo, 30-40.000 euro. No, io ti ho mandato il l'arca, l'arca America 6 posti, 5,90 m. Cazzo, io avevo messo anche le foto, porca miseria. E poi vabbè, ho letto un po' perché lui ha scritto un po', non è che, capito. E c'è di tutto, perlomeno, per quanto ha scritto lui c'è di tutto. Una bella descrizione eccetera eccetera, non so se l'hai visto, 16.9 5,90 m, Arca America. Sì, guarda, c'è un altro migliore secondo me, questo è un Rimor però, arriva al Super Brig 678, ha la mansarda molto alta, quindi a me piace alta perché consentito di schiacciare il naso al tetto, supercesionato, questo è 50.000 km addirittura, pannello solare, inverte, ambo di Roma, sono sempre 16.800 io, questo è un 2008 turbo diesel, a Ford, buono, questo è buono però, chicca. Ma io guardo soprattutto quelli di continente, non quelli di qua, perché ormai ci ho rinunciato, credimi, a quelli di qua, perché vogliono guadagnare con delle macchine vecchissime, eccetera, eccetera. Piuttosto guardo quelli di continente. Allora, mica sto guardando quelli di qua io. No. Su Capitale qualche uno che guardo, vedo Sardegna, lo guardo, ma non interessa più di tanto. So già che non vorrei la candela. A quel punto si fa un viaggio e risparmi. Sì, no, cioè sono un sacco, solo che guarda, sinceramente, a mio parere devi avere almeno una soglia dai 18 ai 22 mila euro per prendere un buon prodotto. Almeno, sì. Poi giustamente, come ti ho detto, se uno si vuole accontentare, perché comunque abbiamo la nostra età, e uno si vuole accontentare, viaggia lo stesso, dorme bene lo stesso, per dire. Fa i suoi cavoli lo stesso, apre la sua tenda lo stesso, e come fanno molti che non stanno lì a guardare l'estetica, ma cosa mi ha fatto a me se non c'ha quello, ma non cosa... E fatene me, io li ammiro, perché giustamente io dico, capita, io gioco in tenda da campeggio, e Ghidu intanto viaggia, e da una parte li ammiro e non sbagliano, perché tanto loro sono anni che viaggiano anche d'inverno, per dire, con tutte le loro, diciamo, comodità, no? Per quel poco che hanno le loro comodità, come il frigo, la cucina, la caffettiera, pranzo e cena, i fornelli, il riscaldamento, quello che serve. Ed io dico, epita, io dico da ghiccio, gatta, mai da ghiccio, con ghiccio gamba, tutto boccio mare, intanto quello sta meglio di me, perché quello viaggia anche d'inverno, io mi devo accontentare di due giorni, fine settimana, di Ferragosto con una tenda da campeggio, sicché vado a ripensare, no? Questo da una parte non ha fatto male, se le sue possibilità sono quelle, meglio accontentarsi a volte che star lì con una tenda da campeggio. Vabbè, io quando dopo la rotta ho detto, cazzo, se permetti sono meglio io che uno che la tenda, ma perché? Perché tu prendi agganci e tutto dentro la scatoletta e poi apri la scatola e lasci la sorpresa, non accetta, quello sì. Se ne ho visto un altro, un Leica, una QVP2, 14.000, per com'è, insomma, è buono. Però ci sono... mi guardo tante cose, lui, perché vederlo nelle fotografie magari ti sembra anche accessibile la cosa, poi vai a vederlo di persona e dici, cazzo, no, nella fotografia non era così, magari ha problemi di motore, lui e quell'altro, insomma, bisogna valutare bene le cose. Questo è un gemellare anche, un gemellato, insomma, un sacco di cose, per il prezzo che ci si può accontentare, ecco. Guarda quello che ti ho mandato io, 16-9 mi pare, quell'Arca America. Secondo me, a parte che uno giustamente non vede il motore, non vede, non prova, no, allora è un altro discorso, però guarda già le foto e poi già dai una valutazione sull'occhio, poi lasciamo perdere sul motore, perché cosa c'entra? Uno compra usato, quasi se ne andava in a stentino e si ferma il motore, non c'entra niente quello, capito? Perché uno garanzie, quando ti vende una macchina del genere, non te ne dazi, un privato. Così che devi sempre andare sulla fiducia alla fine, secondo me. Fiducia, perché neanche lui sapeva che a te ti si fermava dopo 20 km e quello è il casino, capito? Vabbè, la fiducia, molte volte è contrattare con la persona faccia a faccia, vedi già la persona che è, e ti fai una sorta di stima se c'è una persona pulita, se è una persona onesta, e poi valuti giustamente. quello che stai acquistando, capito? E comunque, soldi alla mano, sono nulla, no, si canta messa. Sì, comunque guarda la descrizione di quello che ti ho mandato io, è una bella descrizione, comunque, e poi valuti, nel senso valuti, dici la tua, no? Caspita, per me è una bella macchina.